Preoccupazione potrebbe aumentare o diminuire, perché non dovrete replicare questo piatto. La prova consiste nel creare un piatto vostro originale utilizzando tutti gli ingredienti contenuti in questo piatto, né uno di più né uno di meno. Fantastico. Fai quello che ti pare, nulla vale di più. Alida ha potuto parlare a lungo con il maestro. Voi non avrete questa fortuna. Però, Gianfranco, quali sono gli ingredienti? Zucca gialla, cappesante, canna bruciata, passion fruit, zucchina con il fiore, tartufi di mare, il muschio brasato, coriandolo e basilico fritto. Metà di questi ingredienti mai visti prima. Chef, che potenzialità hanno questi 10 ingredienti? Allora bisogna stare attenti a quello che noi andiamo a costruire sul piatto. La zucca è dolce, poi il coriandolo è micidiale. Lo devo sentire sempre per sfumatura, non lo posso sentire che mi spara, sennò mi uccide la capisana. La canna bruciata non va mai cotta, giusto? No, la canna bruciata quindi va usata come una spezia. Come una spezia, giusto? E il muschio è problematico come ingrediente? L'hai assaggiato il muschio? È dolce, sta sul dolciastro, insomma, però è buono, è molto buono. Cioè, dalle parti nostre, assolutamente, sì. So che siete molto preoccupati, ma vi ricordo che la conoscenza della materia prima e le tecniche di utilizzo degli ingredienti sono fondamentali per esaltare la qualità del piatto. Prova della tosta, tostissima cazzo. Tutto chiaro? Sì, chef. Avete 30 minuti di tempo per correre in dispensa, prendere il cestino e cucinare i vostri piatti. 30 minuti di tempo. 30 minuti. Presto. 30 minuti sono pochi, eh. Sono pochi, troppo. Pronti? Sì. 30 minuti a partire da adesso, via. Dai. Allora, chef, hai questi 10 ingredienti, fai un altro piatto. Ma potrebbe essere anche un'insalatina sotto la base del passion fruit e del coriandolo. Ma anche la capresanta, penso, due tartelline, la puoi battere e ci fai tutto un coloncino. Ci metti il muschio brasato al centro, magari sotto il piatto la metti una siciata di canna bruciata, e ecco fatto. Ma soprattutto chi ha mai usato il muschio oltre che per fare il presepe? Non voglio andare a casa, quindi ce la metterò tutta, però è una sfida dura per me questa. Non ho idea, in 30 minuti non c'è tempo, quindi work in progress. Si lavora così, qui che si vede la capacità di uno chef. Io comunque farei il pesce fritto con la zucca, tipo brasato, il tartufo di mare crudo, con l'acqua farei un'infusione con un po' di santa, leggermente scottata. Eccoci qua Gianfranco, lei è Lucia, la sindacalista. Sta facendo la pulitura, la zucca la potevi non pulire perché è buona mangiarla così, anche la buccia. E insieme la prendi sopra per il mezzo. Mezzo? Eh sì, l'hai buttato via, ti posso sapere il mezzo. Adesso l'hai buttato via ormai. Si potevo, avrei potuto, chi se ne frega, sono io che invento il mio piatto. Sono passati 15 minuti, lamentate il vostro tempo, c'è passata, andiamo, forza! Sto correndo, cominciamo. Pochissimo, ovviamente oggi lo rischio perché non mi va più di andare a casa. Due ore. Ho messo, beh intanto la zucca già in forno da subito e ho curato il coriandolo e ho smollettato leggermente il coriandolo e ho messo subito il ghiaccio. Ma sì, lo sai che è un profumo di cimice. Eh sì, è vero. Ma allora dai. Tutto ok. Ma tu da dove vieni? Dal paese dei Gracchi? Io ma no. Infatti, ma niente, c'è subito, poi fai l'altro. Tutto ok. Tutto ok. Allora cominciamo senz'altro dando la parola alla dottoressa psicologa Stefania Voluccia che ci introdurrà questa bellissima serata, perché qui sono tutte bellissime, arruffate e serate. Ascoltiamo col cuore, con la mente e con l'anima. Stasera, la nostra identità infinita nell'io crediamo sia l'unico volto della vita che ci abita e che noi abitiamo. Tutto per noi è concluso, tutto è per noi calibrato nell'ambito del nostro io sovrano. Crediamo di conoscere, di saper declinare in tutte le sue manifestazioni dell'esistenza. Sogni, progetti, speranze. E poi davvero così, la vita che viviamo e che noi identifichiamo con la vita del nostro mondo è veramente e se al di là della granitica c'è qualcosa che è costruito, ci sorprendesse poi di essere comuni non può più. profitto della giornata. Salute, dire, possa succedere. Sono Marsi, Rimini, Forlì, il Forlì non c'è il mare, la Forlì per esempio alla brioche. La brioche, fuori brioche, cosa mi costava? Sono 100 lire, un euro. 2000 lire, un euro soltanto, sì, non 3 o 4, comunque una cifra che poi mai più sono però passato per i giornali quella te. C'è un giovane, un ragazzo bravissimo, un fratello, un partito con il talento in gamba, così via, andiamo a trovare questa casa del centro storico di Lecce. Al terzo piano andavano i genitori Umberto e Tommaso, mio padre Pignone, e lui sul terrazzino arrivato dalla lavanderia al suo studio privato, dove con il piccolo geloso, il famoso registratore di allora, lui leggeva testi importanti e li registrava tentando di pulire al massimo il suo linguaggio, dando l'impressione italiana, vera, e non come la mia che è quasi albanese. Abbiamo il teatro laboratorio in via Roma Libera, piazza Sant'Osimato. Vendetti due guadi miei e affittammo questo teatro. Io volevo andare a Parigi per giovedì. E nel frattempo c'è il viaggio che faceva con il Cristo 63, quando ci fu la famosa menzione in pubblica sua e del Alberto Pignone. Quando fece la Manon al teatro Arlecchino con l'italiano, chiese Manon, che era nel 66. Arrivarono una serie di persone a cui le vecchiette convinte che era la Manon. Ma non mi terminavo bene, perché alla fine c'è una lista enorme intervenendo la polizia. Di quelle belle, sai, con il presidente dei Chioma, che però fai un capricci. Tu fai la parte del tutore. Io guardo qua, tutta lì ho fatto la parte del tutore, però anche io. Per cui, sai, se le volte del tutore dobbiamo essere veramente una casa scuola per il motore. Anche dei quadri di scena in quel periodo, cioè dei quadri su carta che richiedevano le opere di Mario Schifano, Falce e Martello e così via, eccetera, che noi ci facciamo le granate in testa in 20 minuti di lista. Una delle scene della lista doveva essere lui che usciva a volo sfondando un quadro e mi planava addosso con una falce e dovevo placcarlo col martello, buttarlo col martello. Conoscendo la follia di Carmelo, dissi all'amico nostro, vai giù dal fabbro, fai togliere il filo e la punta della falce per ogni caso, d'accordo? Thank you. queste cose le capiscono più le donne che gli uomini. Nel senso che una donna già quando comincia la pubertà vede che nel momento in cui comincia a passare la sua crescita, la sua bellezza, e incomincia a passare. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Diceva che in tempi che le ragazze erano timide, oggi non è come si dice più questa cosa, una volta lo si diceva, ma non si trattava tanto di timidezza, si trattava di conflittualità. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks but quiet dreams, and the window that looks out to soprattutto perché da un lato facciamo perdere se non lo facciamo troppo, ma soprattutto perché la conflittualità fa pensare. Mentre quando non avverto questo conflitto, non sento il suo corpo che va anche. La cosa del buio è noi più in bagno siamo all'Inghilterra, c'è poco di anche l'India facile, non basta, cioè per prendere le cose, non dovrebbero dire, ma per tempi lenti, diciamo, programmatici, c'è sempre la regia, il servizio buono, se vuoi che cosa, non è una cosa di così, per esempio, precipità, così, non è vero, infatti sopra le bombe. Una musica di vera, Gaetano, ciao bello, come stai? Tutto bene? Ascolta, sono Sergio, ti volevo dire una cosa, ma senza sbatti, sono al portello con 5. Ti volevo dire una cosa senza darti fastidio. Sono al portello con 4 amici e niente, senti, ma per quella roba là, no? Dico, per quella roba là. Bravo, senti, ma se con una 100 euro a testa ci risolvi qualcosa per la serata, alla fine non sappiamo che fare, siamo qua, siamo venuti da Roma e non conosciamo nessuno, almeno siamo un po' allegri, mi spiego. No, no, va bene, chiaro, chiamami tu senza problemi, scusami anzi, Gaetano, veramente. Scusami tu, credimi, grazie, ciao, a dopo. Al portello, alla metro portello, va bene? Siamo qua fuori, grazie, ciao bello, ciao. Calcio splendido, super, Costa, straniero di tutto. certo lingua. Incredibile l'occasione di Shevchenko poco fa. Rivaldo mette in mezzo dentro il colpo di testa. Incredibile. Prova! La tecnica di gran lunga più debole, la stessa, la stessa debolezza. La gran lunga più debole è la necessità analitica che governa la legge. La tecnica non infrange la natura. Quindi la natura potrebbe essere il paradigma, deve essere un nuovo, a partire dal quale si può costruire una città secondo la natura e condurre con la conoscenza secondo le leggi. Sofocle riprende questo motivo della tecnica della natura in una. E dice sì, certo, l'aratro fende la terra, ma la terra si ricomponde dopo il suo passaggio. E anche la nave solca le acque del mare, ma la calma è trasognata con le onde che torna a tantano. E allora, porta fuori le tue fanche. E allora andiamo al mondo greco e mettiamoci nel pianto dell'Africa, la nostra residenza, che è la tradizione della civiltà, abbiamo detto molte cose, ma la cosa più importante che dobbiamo dire della tradizione giudaica è che il mondo giudaico è un vecchio mondo. Poi il formato del servo. E quando oggi io sento il lamento da parte cristiana che siamo diventati un sacco di qualche scopo di spera, è che domani il mondo è diventato un uomo. Passando al cielo della zona del formaggio, Anima. L'anima è una parola greca che Platone ha interrotto, ma non sempre ragione, non è un dice Platone, non importa che abbiamo detto, sono 100 cose importanti. Platone dice, ma non è possibile per l'organizzare l'universale, ma non ci sono i sensi, non ci portano da nessuna parte, non c'è una ragione molto semplice, perché i sensi ci guidano, ma soprattutto sono diversi dai se noi noi dovessimo dire che temperatura c'è in questa sala, avremmo tante temperature quanto c'è in nostro corpo. Perché c'è Platone? Perché i corpi sono diversi. Perché i corpi nascono, crescono, si ammalano, conoscono passioni, non sono i criteri di vita. Allora dobbiamo fare. Tara! È soltanto una bambina! Qual è l'ordine del mondo? Non so! Tare! Tare! Devi lasciare stare, capito? Perché l'anima è capace di astrarre, perché l'anima lavora solo con numeri di sentire. Perché l'anima non è soggetta alla variazione fisica. La matematica è una scienza perfetta perché funziona con numeri, la fisica è una scienza imperfetta che va per la programmazione di un risultato che lavora con corpo. Avevo una parola, che era la che quanto dalle robe è stata una parola siccome soffio passato alle diciamo che quando noi traduciamo la parola, cioè quando noi traduciamo una parola si porta dietro la cultura dove quella parola è e la cultura greca aveva già diviso l'anima dal corpo perché l'anima serve per pensare non mi dico niente a formulare teorie di costruzioni validi per tutti da tutti i in questa maniera. È una commissione, il film è sempre stato tributario della della musica, anche serale, e suonare, emessa da un pensato, non e perché oppure il popolo ebreo si lamenta per essere gli avversari del nauseato del mai quello cavolo 40 anni di madre di questa mia io sono il vortice. Allora vorrei fare una piccola richiesta a Giorgio Campanelli, leggo. Allora Giorgio, allora Giorgio, ti spiego, c'è stato un problema con Gaetano, nel senso che io mi ero accordato per mezza biotta barra una per uno e insomma mi sembrava che fosse andato tutto ok, se no il problema è che alla fine Gaetano non viene. Quando voi recitate non dite che credono nella realtà del corpo, ma dite che credono nella risurrezione dei corpi. Perché il cristianesimo non è un di corpi. Gesù Cristo redime il mondo col suo corpo. Ma i corpi sono. Paolo di Tarso, anche perché voi dovete sapere, come molto sono due chiamati, il nemico di Dio si chiama. Non è santo, santo è solo un avversario. Non il nemico. Sono morto, dov'è il tuo pubblico? Ora che Cristo è morto. E i cristiani dice, poi non morire. Siamo usciti, l'uomo non è più morto. I cristiani non sono più morto. Ho cominciato un'altra storia. Dopo questo, diciamo, giù per Allora, insomma, più o meno. Non c'è la luce. Radio non è immagine, ragione è puro suono, quello che vedete è un sovraintendimento. Cosa dice? Prendeva la padrone e stava la raccoglie dal contesto. Si va a la radio non è immagine, la radio è puro suono, quello che vedete è pur fra intendimento. La radio n'est pas une image, la radio est un son pour ce que tu vois est un son malentendu. E successa una cosa un po' strana, nel senso che la scorsa settimana ho parlato con Rodrigo, perlomeno giusto, e allora ho detto: Rodrigo, santi Dio, quanto sei chiarino questa noce, avrei tanto bisogno di parlare d'amore con te. Eppure ogni tanto succede che l'amore, ogni tanto che si travolge, che rimaniamo lì a guardare estasiati una nuova alba per un giorno appena cominciato e un altro giorno già finito, che tu sorpreso mi chiedevi. Allora, volevo dire che in realtà esattamente noi siamo molto felici di questa esperienza, perché a me piace tantissimo ritrovarmi in situazioni così divertenti, perché un hotel se bello, io carino, ti amassi non ti lascia quello che ti regala un posto, tutti quanti ameremmo se noi stanze, le chiavi è stata una grande idea, perché da una stanza che nessuno usa se io ti amassi ogni giorno sarei di nuovo qui. È una bellissima frase che il nostro amico Giorgio Campanelli ci scrive in diretta su dosunian.it. Siamo ufficialmente quasi, e dico quasi in diretta, perciò vorrei fare un plauso a tutti gli amici da casa che ci seguono appassionati. E allora leggiamo subito un messaggio di Vito Antonio Pati, che ci scrive: le mani sporche di terra sono come parole scritte a penna, intrise nel sudore di un calamaio di memorie perdute. Sono rughe abbronzate, nervose, stanche, vabbè, dura un poco, però alla fine finisce che le mani sporche di terra sono limpide, trasparenti e non hanno bisogno di proclami perché si beano o beano o beano nella sostanza e non nell'apparenza. E allora grazie Vito, grazie Antonio, grazie Eugenio, grazie Carlo, grazie Ludovico. Grazie Giorgio, soprattutto Campanelli, che tra poco sarà in diretta qui con noi, direttamente dal Circolo delle Belle Gioie di Aradeo. Ci abbiamo Giorgio Campanelli tra poco qua, va bene? Allora tra poco, grazie. Come al solito mi si è smettato di fare il mio lavoro, ma sono in casa. sovrintendente, oggi con Piero Pizzicannella abbiamo aggiunto un altro tassello di spessore alla cultura non solo avellinese ma alla cultura in generale. Ad ospitare questa prima personale il complesso monumentale del carcere borbonico di Arezzo. Ed è anche con molto piacere che noi abbiamo dato ospitalità a questo che io definisco un evento, perché finora è stato luogo di mostre di archeologia, di arte contemporanea, di arte moderna, e la suggestione degli spazi ha dato sempre la possibilità di dare nuovi spunti di riflessione a questa esposizione. Devo dire che in questa occasione, anche per la valenza delle opere esposte, c'è un valore aggiunto in più, cioè i materiali che utilizzati dall'artista, che hanno veramente a frate. Io ce la sto mettendo tutta perché voglio che lei sia orgogliosa della sua mamma, eh. Non voglio star qua, privarmi di lei per fare una figuraccia, cioè starei male al 100%. Mi dispiace che aver fatto un piatto pensando a loro che poi alla fine non ha trasmesso niente. Maradona. Questa febbre sale, maledetta. Ma quale contratto? Non ho problema. Io sono per farne un contratto. La notizia di oggi è che Morgan Freeman sarà il nuovo Ben Hur. È al momento l'unico nuovo e andrà a impersonare il Darin, l'arabo che insegnerà a tutti i come ne capisci? A capitano del cast invece potrebbe essere Tom Hiddleston. Io non voglio niente a che vedere con la canzone. Quanto la trama sa proseguire con gli amici della prima, io non ce l'ho, la prima, la poi le regolare, le regolare, e ovviamente anche la nuova versione lascerà anche il spazio. Ma come è, magno, magno, sì. Vi aspetto a questo video, io non mi voglio niente, perché me ne cambiate la mia, non so niente, ma perché me devo prendere la lavatrice? Io non capisco perché mi devo prendere la lavatrice. Allora vorrei invitare i amici da casa che si iscrivono ancora a ritornare tra di noi e... Allora, essenzialmente tra gli astanti ci abbiamo qualche incompreso, qualcuno che vorrebbe saperne di più. A partire da Giorgio Campanelli, che tra poco è qua tra di noi. Io vorrei simpatizzare con la nostra amica, alla nostra sinistra, la nostra amica Giada. Giada Vella, come stai? Tutto bene? Bene, mi fa piacere. Mi fa un sacco piacere, Emanuela. Allora, direttamente dalle Indie più recondite ci abbiamo la nostra amica Giada che ci scrive su tosunian.it. Io rammarico per non essere con voi, io vorrei tantissimo, io vi scrivo da Forlì, io vorrei sapere se c'è la possibilità di una piccola dedica. E allora, cara Emanuela, tu chiedici quello che vuoi, qualsiasi cosa tu voglia, noi estanosce la desideriamo come te, va bene? E allora tra poco, ciao bella. Io la lavo di l'ho presa da buon tempo, non l'ho presa da come si chiama, ci ben bene, io che la consiglio la conosco. Ma sono anche soldi del ricco, benestante, persona estetica e che ha il buon gusto di non avere. Io non la voglio la bene, bene, bene. Buonasera a tutti, siamo ancora qua. O meglio, se buonasera e se buonanotte, se gli amici della notte anche stasera siamo qua. Non siamo qua per noi, non siamo qua per voi, non siamo qua per tutti. Essenzialmente più cool del Friend, più old school dell'Atari, Manolo vagabonda in un pianeta di rime, con me si circonda il menestrello che in me tiene lontano lo stress. E allora, iniziamo con i saluti. Ciao Ludovico, come stai? Tutto bene? Wow. Ciao Giorgio. Ciao bello, come stai tu? Bene, bene. Allora, ricordiamoci piccole semplici regole per una discreta convivenza pomeridiana. Ricordiamo agli amici in diretta che abbiamo due Mac, o meglio tre, o meglio due più uno. Ebbene, chiamiamo quello in fondo con la nostra amica Gaeta che ci saluta da qua. Gaeta è la ragazza con gli occhiali blu. Ciao Gaeta, come stai? Tutto bene da lì? Bene, brava, disgraziata. E poi se abbiamo un altro Mac che sta nella salina appena si entra. Ricordiamo che è importante la condivisione. Stanotte siamo qua, siamo in diretta su tosunian.it, abbiamo un sacco di amici accanto a noi. Mettete quello che più desiderate, va bene? Quello che più desiderate, grazie. Ogni singola nazione sentirsi non ce n'è pace ai me, ma sì, e se non fosse vero, e se non fosse vero, lo dite voi, e se non fosse vero, e se non fosse vero, è vero, è vero, è vero. I conquer a certain intimacy with all my past expressions, feminine lives. The desire for you. A capitana del cast invece dovrebbe essere Tom Hiddleston, ma la confermeremo. Quanto alla trama, sappiamo che si concentrerà sugli anni giovanili di Judah Ben-Hur e di Messala, amici per la pelle che crescono a Gerusalemme. Ovviamente questa nuova versione lascerà ampio spazio alle gare nel meraviglioso ambiente del Circo Massimo. Vi aspetto al prossimo video con nuovi aggiornamenti dei set. Ciao a tutti! La chitarra e suono per te il tempo di imparare non lo è non so suonare ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, amore, amore, è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore. It was this time that I was on the island. Yeah, I started working on this island. It was a very remote island. We were actually having really fun, you know, working in the industry, you know. And what's the industry anyway? But that's not. And I started having this fantasies about an island that was moving, you know? I think that if my beginning was on a moving island, like really, like it's not that you have to make it up, you know? I would be, you know, floating, and I wouldn't walk, you know? How rude is to walk? Why do we walk? Why don't we fly? Bentornati. La notizia di oggi è che Morgan Freeman sarà tra gli interpreti del nuovo Ben Hur. È al momento l'unico nome certo di questo remake. E andrà a impersonare il Darin, l'arabo che insegnerà al protagonista l'impegnativa arte della corsa con le guide. A capitanare il cast invece dovrebbe essere Tom Hiddleston, ma la conferma deve ancora arrivare, quindi niente di certo. Quanto alla trama, sappiamo che si concentrerà sugli anni giovanili di Hilda Ben-Hur e di Messala, amici per la pelle che crescono a Gerusalemme. Ovviamente anche questa nuova versione lascerà ampio spazio alle gare nel meraviglioso ambiente del Circo Massa. Vi aspetto al prossimo video con nuovi aggiornamenti dai set. Ciao a tutti! aspetto al prossimo video con nuovi aggiornamenti dai set. Ciao a tutti. No, come on, go on. Why don't you tell us why you suffer, huh? Why don't you tell us why? What are you? What's your problem? Like really? What is your problem? I don't know what's my problem. I know. Scandalize is right. I am being scandalized is a pleasure. Who doesn't want to be so scandalized is moralism. Oh, what do you think about deeds? Dark what I think about is that was an answer he made in tiny in pleasures. Response to the question. Yeah, so pictures. Nicole Nadine kept telling me, don't moralize this story. Don't be judgmental on his life and what he does and how he does it. So. You know, I didn't write the beautiful letter that Pasolini wrote Eduardo to be I've been losing lots of time. Uno Te Coloso, but, you know, me and Willem, we've done 3-4 movies together, so we kind of... Time at all. It's not our about ideas. Time at all. You know, we talk about things. He's there in the beginning. I mean, he's there in the conception of it. Weekend are killers! But it never stops. Do you have a title? Oh, yes. It never stops. Everything gonna be all right this morning. When you said, okay, the research is done, I'm ready to do this character. It's never happened because the research continues. The film is finished and I'm still researching. I'm a vampire. I'm old. Where are my peels? I'm bored. My hunger is pale. I gotta confess. There's more than meets the eye. How do you like that? As I play the Democrat, I slay and forgive and take my nightmares to my grave. As I play the liberal, I kill and forget all the memories you left. I'm so fucking full of shit, man. Bene, adesso ci risiamo. Allora, c'è stato un problema tecnico direttamente dal Salento, perché in Salento non ci facciamo mancare mai nulla. Allora, il problema tecnico dovrebbe essere risolto, quindi credo che all'incirca tra meno di 3 minuti saremo in diretta a sottosunian.it. Bando alle ciance, direi agli amici Mosen e al nostro amico Aloysius di iniziare con le danze, purché siano sensuali. Agli amici presenti, a quelli assenti, soprattutto inviterei a condividere perlomeno la loro immagine. Se il trucco è andato a buon punto, chiedere indicazioni ad Alexei per quello che bisogna fare. 3 minuti e ci siamo, grazie. Solo se la memoria ha rotto la verità, non è l'artificio. Cortesemente Aloysius in regia, grazie. Non è niente. In questa memoria, per verità. Autore di chi poi dal dover essere della prestazione rappresentativa in caso di una stare di qua e di là della macchina. Bene, bene, allora per cortesia Aloysius in regia, grazie. E non da una parte sola, così come il piano di regia non ha fatto altro un qualche puntiglio, ma non sono mai o cartiglio questo puntiglio. Dove ogni contrazione muscolare, ogni spasimo del ricordo personale, ogni parvenza orale e abbandono al sonnambulismo della macchina è riuscito contro un buon gusto, a che nessuno mi non occorre blablaterare in turco questo simile concetto. Se mi dato di uscire persuasivo, attendibile, socialmente, musicalmente, pensiero. Bene, bene, allora. Ebbene, ciò non dipenderà mai dalla entità di cose, qualità propria del faccio in sé. Tra pochissimo tempo abbiamo una chiamata in diretta, una cosa che a noi fa un sacco piacere e spero che risponderemo con l'entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto. Intanto vi lascio una breve poesia recitata dal nostro amico Rocco. Insistono fino a sanare il segreto di una strofa, mai curarsi del senso testuale, ma concentrare l'orecchio della mente solo sull'ossatura timbrica dell'interno musicale di che la strofa e il verso si compone, e la sonorità depensata che il poeta persegue. Le sillabe di parole seguiranno. Un compositore rispettabile, solo intento ai suoni verdi al suo librettissimo, che gli scivi di tre, continuate a dire un del pezzo terminato in quarto. Oppure riscrivili e fa presto questi versi, che così come sono, bene, bene, bene, la terza sillaba frastornano la frase musicale. E Vincenzo Bellini a Carlo Pezzo, bene, bene, bene. Allora, vorrei fare un piccolo annuncio. Si può avere un piccolo annuncio? Nonostante ti guardi. Bene, allora. E non capita spesso che leggiamo i messaggi un po' più lunghi. E stanotte è andata così. Ci abbiamo un messaggio bellissimo che ci ha scritto divino, questo amico nostro Giorgio, che è bloccato al portello, che saranno circa 10 minuti, perché sta aspettando. Io non vorrei essere volgare, non vorrei dire la banda, perciò la chiamiamo Eugenia. C'è Giorgio che aspetta l'Eugenia e ci scrive questo messaggio nel frattempo, un piccolo annuncio. Ruoli del quotidiano, prego. Identico dentro e fuori di scena t'hanno restituito sì gli dei alla favola, al mito che era tuo nella notte dei tempi. T'hanno scuoiato d'ogni simulazione d'accatto, d'ogni finzione, sì, questa orrifica lebbra che spietata, globale, infesta le purulente croste museali e la flatulenza dialettica dei guitti replicanti condannati alla stima del successo. E allora, è tutto ok? Bene, bene, ok, grazie. You saw it in your natural inclination was to be on the mic, yes. You're a theater be actor. Be ready. You can project. Come on. Thank you so much for being here. I was just telling you this is an audience of all SAG actors. Yes. So I also like to start by asking, how did you get your SAG card? Oh, God. If it's what I think I suppose, it is. I suppose it was Heaven's Gate. It was Heaven's Gate. Or The Loveless, which was... un colore al vuoto. Really? Yeah. wow. Because Heaven's Gate, I think this is a fairly famous story. Rotture prima del collo. You were fired. I thought you were just colore vuoto di tutti colori. I'm in the movie. Super. You are? Sure. You guys, Wikipedia had something wrong. If you ever watch the movie, tra le vene del suo wordplay here. But I'm la fine. I fight come caos. Yes, that's right. You're cockfighter. In the cockfight. Yeah. Il colore la testa. I'm like un colore che svuota il silenzio da tutti. No, I did lots of things. Because the first day on Heaven's Gate, we were about a week behind. Try to figure that one out. Yeah. Because Michael Cimino, who was come actually quite brilliant, but, you know, e mi faccio poi è sempre peggio, correremo veloci, Yuna, ascoltami, il suono del tuo colore di velluto si è spento e scintilla. They were looking for ethnic faces. And, what ethnicity did they think? Well, here's the deal, they were looking for actors with ethnic faces, because it's an immigrant story, a western that's an immigrant story. State of destination. It's like, when you want to be taken, then there will be a greater emotion. Music don't make eyes. I said, listen, what do I look like? Allora è stata la sensazione del mistero che si chiedeva poi gira da uscendo lancia un po' di salta per la presentazione nonostante si vicina Marcello. The compilation of Earth Instantly made our sound work group. Popularity high, availability hard to find. The third chapter in the song of the fourth track finds the deep one round level of the deep sound waves. The first week in the title of the feeling is how the tracks are playing one day. The pop of the fact, time turns into a song of the romance. Anna, ma chi parla domani? Margherita, la mamma vuole dirsi anche tu. Anna, proprio devi aprire le fuori, devi tornare, davvero non si discute. Margherita la sorride, del tutto d'accordo, che non si capisce che non è così di questo. In quel momento, ma adesso procedi, ma ecco Anna, questi sono per te. Anna rimane freddina. Anna, o cosa farò? I'm gonna tell my people back home, but I was there. So I was there. Venire 21 02 2023, Carlo Conte, stai tranquillo, ho chiesto a mio padre il professore, ma i nonni di un minore a me in buone mani. Sguardo di gratitudine di Margherita, Carlo Mentre arriva infermiere che parlando nel porto, infermiere signore, pronto, abbiamo interfatto, Anna, consiglia a Margherita di tenere la lava, è la bambina che ha fatto nel caso, promesso di infermiere, intervigliere, ma è la dopo poco il paese, Margherita fa il cuore, deve fermare, si quanto ha la spinta dall'infermiere, poi la porta del reparto. Oh, Margherita, ti aspetto qui, qui non mi muovo, si chiude, Margherita affronta. Carlo e Giancino si approcciano così stanco, non come renderci conto che tutto appartiene al passato. Margherita, dove vai, Carlo, resta un po', se ti fa piacere. Interno ospedale, sala d'attesa, giorno. Carlo, portate il caso di che rinchi plasma, Margherita, solo con sala d'attesa. Make him wait for 8 hours. Forza, Carlo, ci siete di fronte a lei, ci guardano sapendo bene cosa dirci. Margherita, cosa mi vede ancora mia madre? Carlo, ogni tanto vado lei a pranzo per venire, Margherita, con te. I think he fired me because things were, he was under a lot of pressure. and it wasn't. I understood that, you know, I was humiliated, as you would be, you know. But you understood that he was under a lot of pressure, and it wasn't personal. It was like, I think he was so... E di questo, come dice il servizio, Margherita, ti scuso, devo mandare un po' di messaggi. Carlo, il pentoso, certo, le prende il cellulare, manda un audio WhatsApp, stiamolo sul punto di vista di Carlo, mentre Margherita parla. Margherita, ciao Eva. Yo, yeah. Eat your soul. Sever the head. Drink virgin's blood. Drain thy corpse. Words corrode modern spirit's juice. So, vomit cuts so you can. Be sick. Be sincere. Be a thief. Be a fucked up bitch. Be a queen. Fuck that queen. Don't pay shit. And don't eat. Slay the richard. Crash the humble. Always be kind. Surrender parola inaugurazione. Carlo, sì. Just don't think about it. Kratos great. Messaggio si sente il sonoro. Forse il telefono. Arrivo, mi dico qualcosa della tua mia padre. La tensione tra loro si scioglie un po'. Questo sapeva del progetto, che era un po' che poteva partire, una cosa fantastica, ma Margherita e Bea abbiamo fatto tutti e due momenti ricordamenti. Carlo. Silence was Ascolta, cambia di nuovo la situazione. Think about that a lot. Siete improvviso dove c'è camminare. And re-lose the nuts. Non si aspetta. Margherita, Carlo, viene interrotta. Ascolta di corpo, sono proprio fortissimo. Margherita, cosa dove siete? Fail the apocalypse. Like democracy. Il parello. Carlo, ti vengono presentate situazioni in mano. Chi è che è il professore? Enaghi, allora. For all the scientists and me. You put me up to this, and I'm putting up a fucking mess. To do it again? Please, don't forget your designer. That's sempre destinato questo cinema. Federico. Stavo rientrando a casa, sono inciampato sull'ultimo gradino prima del pianerottolo. Ma lo dicevo, Carlo, gli sorride, per fortuna è arrivato Carlo, l'abbiamo invitato a pranzo, Margherita, guarda Carlo, quando stai ristaccando tutta la telefonata. Carlo ha telefonato il giorno grazie a papà, Carlo mette guida della giunta, c'è trasmettere sicurezza, Carlo tutto a posto, Anna il primario, sta arrivando risolvere per lui, Margherita, oddio, si devono operare. Operare, Carlo, tutto a posto. Anna il primario sta arrivando, ti opera lui, Margherita. Oddio, ti devo sperare. Io parlo di speculazione di interessi. Allora, vi spiego la situazione. Circa 15 minuti fa c'è un'amica che si chiama Anna. Anna è una ragazza splendida. C'è anche un nostro amico che si chiama Lorenzo. E questa sera, Lorenzo, io ti devo dire veramente grazie. Perché quello che abbiamo chiesto non solo l'abbiamo avuto, ma l'abbiamo anche vissuto. E vorrei anche ringraziare Rocco e Ilaria. Grazie. Ma non per niente, per l'amicizia, per l'affetto e soprattutto per quello che arriverà tra un po'. Auguri, Nicolò. Grazie. E vorrei ringraziare anche qua. Io vi chiedo scusa per essere partiti un po' a rilento questa sera, ma come ben vedete Julian è sempre più così. E non dico che di meno, dico che minorata, la minorazione non è per forza una cosa brutta, è anche una giusta. Detto questo, se abbiamo un tema natale in corso, un tema natale che ci viene domandato da un amico Toro, l'amico Toro è nato a maggio, principalmente il 7. E tra un po' li svegliamo pure l'arcano. E allora c'era questo amico che si chiama Gianluca dalla provincia di Bergamo. Gianluca ci scrisse una mattina chiedendoci in vano domande sul suo futuro. Non è la migliore domanda, la migliore risposta. Io sinceramente un po' spiazzato gli chiesi, ma perché? Ma in che senso? Grazie. Ora, se qualcuno vuole qualcosa da bere, o meglio, grazie. Facciamo così, se qualcuno vuole un benvenuto. Grazie. C'è la nostra amica Gaeta che sta qua accanto a me, e la ragazza con gli occhiali blu. E la nostra amica Gaeta che avrebbe grande piacere. Caro Filippo, ehi bello, c'è un microfono, c'è un Negroni, anche due, c'è un impianto radiofonico. Ah, bravo, bravo. fare un... Anche tu mi comprendi grandissimo, grandissimo. Non dico niente, non dico niente. Dobbiamo il nostro tempo a solamente forse abbellini, rossini, pergolini. Cimarosa. Anche se orale. Caro Filippo, l'abbiamo detto. Forse dovrei, non ce la faccio più. Vieni alle 7. Dai, certo. Oppure. Oppure Carlo prosegue per la battuta. Ogni volta che pensiamo che per sempre c'è solo un'illusione, insomma. È di questo che parla la letteratura. Non lo trovi un po' troppo deprimente? No, non lo trovi. Grazie, mi metto subito al lavoro. Pochino, poco, trovata. E come pensi di farlo? Molto è là. È là. Dice anche il pezzo di Oscar. Soffocato da rigore della trasorta tra le vene del Bugliano. È tutto un. La favoletta biblica relativa alla dannazione caotico no, no. Voglio che ci sia anche tu. Ma lo stato che cosa sono? Pronto? Ascolta, e cambia di nuovo espressione. Ho ricevuto un consiglio dalla regia. Carlo, al telefono, concentrato, situazione in mano. Oh, chiedo al professor Manghini. Allora? Sta arrivando. Ti opera lui. Oddio, ti devono operare. La frattura non è grave, ma è scomposta. Scomposta. Come è scomposta? Oddio, è stupendo. Sofia apre le pagine e ne annusa il profumo. Inebriata. Salva. Si allontana lungo la strada con la moto. Stanotte non stancarti. Non stancarti. Margherita sorride mentre accarezza la mano e Andrea la porta via. Certo, certo. Stasera che ora arrivo? No, non ti fermi mai. Vieni alle 7. Vieni alle 7? Non possiamo incolpare la verità di essere deprimente, ma dobbiamo cercare di raccontare bene. Bene, nel tuo manoscritto il tema è fuori fuoco. Hai fatto buon viaggio? Sì, mi manca Milano. Ma non ci credo. E cosa pensi di fare? Ora stiamo con Margherita, che guarda Carlo, è da lei, Carlo scollava il fiore verso di lei. Carlo, un dolore che svuota il silenzio, da tutti, come il caos. Dal collo alla testa, alla fine nel mezzo, le vene del suo pianto, una trama dissoluta, una trama dissoluta. Lo ripeto, Anna, questi sono per te. Anna rimane freddina. No, ma come, ma come? No, sono proprio per te, dalla parte di Patrizio. Continua, Margherita. Beh, così vedi ancora mia madre. Dai, Carlo, stai tranquillo. Ho chiesto a mio padre, il professor Magnani, è luminare. Anna in buone mani. Certo, certo. Oh, scusa, devo mandare un po' di messaggi. Lei prende il cellulare e manda un audio WhatsApp. Siamo con il punto di vista di Carlo, mentre Margherita parla. Margherita, Andrea, si volta. Un bell'uomo sui 45, facendo cose tipo fedeltà. Di chi parlano? Dell'episodio 6, 2021, di Carlo? Possiamo soltanto immaginare, lasciare tipo come sottinteso al telefono, ancora meglio, quindi praticamente dobbiamo solo aspettare, insomma, puntini e mantenere il suo tocco gratificante, il suo sguardo. Comment tu t'appelles? Ottimo, Lucia, non dimentichiamo qualcosa? Comment tu t'appelles? Niente affatto, niente allora, affatto, mi chiedono Sofia. Gli amici dal centro. Vieni, Sofia. Mi chiedono gli amici dal centro. È emozionata, Sofia, è felicissimo. Oddio, è stupendo, è incredibile, Eva. Pescalo tra gli invitati, Eva, di stasera. Le inaugurazioni servono apposta. È tutta una presentazione. Andrea, quella che spegne il telefono. Quello che spegne il telefono. Al telefono. Sì, esatto. Un tavolo buffet. Invitati che si servono da soli. Voglio che si possano muovere liberamente, insomma, non sul lato destro della sala, ok? Per qualunque cosa mi chiami, io dal pomeriggio sono in studio. Arrivederci. Il passato non ti fermi mai. Stasera a che ora arrivo? Alle 7? Ma lui c'è? Sì. In realtà, episodio 6. Margherita, la mossa ti è stata suggerita. Vediamo cosa riesci a inventare per conto tuo. Loro, i volti divisi dal vetro, i vicini occhi negli occhi, animati da sorrisi spontanei, davanti a lui, in quello che un tempo Carlo sorride, incolpare la verità di esagerare. Non è giudizioso, Carlo. Accompagnami fuori, l'aspirante scrittore. Nello spazio pieno di postazioni di lavoro, divise da grattacieli, nella sala editore. Grazie, aspirante scrittore. Sono abbastanza rassicurato, Carlo, ma non lo so. Ma che bello l'amore, che bella l'amicizia. Guarda che bello, porto, Sofia, che bello porto, proprio. Carlo, Benvenuta, interiori, casa editrice, sala comune, ufficio editor. Buongiorno! Accidenti, ti sei fatta proprio male. Sì, mi sto guardando te. Allora dovrai farti perdonare. Stacco. Non pensavo di farmi perdonare. Fine del silenzio. Un colore che svuota teste. Non so leggere. Al contrario. Un colore al vuoto che condensa silenzio. Do 7. Diesis. Ma che? Fallo domani. No, mamma. Voglio che sia anche tu. No, questo mi dispiace per la tua pelle. Non dirlo neanche. Solo che questo la pelle la stavo aspettando. Che si richiude. Margherita a pranza. Carlo le si avvicina. È pranza. Cambio. Devi aprire gli affari, devono ingranare. Stasera, non ti disturbo. E cosa sono? Cosa sono? Io sono qui per te, Anna. Mormorando. Margherita, quindi qualcosa te l'ha detta mia madre. L'attenzione sarà loro, ti scioglio un poco. Solo questo. Non sapevo del progetto, sinceramente non pensavo che fosse una cosa così, insomma, come dire, preparata, una cosa ritualizzata, quasi organizzata, insomma, insomma. Adesso non vorrei distaccarmi dal copione, ma allora qualche informazione è passata anche dall'altra parte, insomma, non siamo più attivo in corruzione nessuno di studio. Certo, e lo dico in tono assolutamente rispettoso. Tutto a posto, Anna, il primario sta arrivando, si opera lui. Oddio, mi devono operare! Anna, nonostante il dolore, mantiene il suo tono graffiante. La caviglia non si aggiusta da sola, questo è risaputo, insomma, la frattura non è grave, ma è scomposta, insomma, ci vorrà un po' di tempo, ci vorrà del tempo. Ci vorrà del tempo! Lo abbraccia, si scioglie in un momento quasi in un momento, non mi voglio soffermare su questo momento, insomma, siamo a ridosso di un'operazione veloce, la moto che si allontana lungo la strada, le nuvole, un goccio, uno struscio, una pioggerellina, un goccio di pioggia pescato tra gli investitori stasera, e insomma Anna rimane lì a ridosso dell'operazione, che potrebbe, come si dice, metterla un po' in difficoltà questa operazione, insomma, sai, uno dall'ospedale ci entra, poi ci esce, poi ci rientra, insomma. E Anna allora lo prende in disparte e dice: che affetta da un male incurabile, è un male che non lascia spazio, non lascia spazio alle parole, non lascia spazio ai pensieri, è un male che può essere solo operato. Allora si avvicina, perché lei conosce la dirigenza, insomma, di quell'ospedale. Si dovrebbe anestetizzare. Con aria scontenta annuisce severo. La sala operatoria è pronta, manca solo il coraggio di prendere in mano i ferri, Anna è spaventata, non sa cosa l'aspetta, una vita sola non mi basta, ed è per questo quello che lei continua a sostenere in braccio a un dottore che sembra essere sempre più titubante sull'operazione, insomma. Anna grida! Ho paura dell'operazione! Non so cosa potrà succedere! Allora il dottore prende la moto, dottore, e si allontana. Si allontana dalla sala e non è ancora tornato. Forse non è proprio più in programma il suo ritorno. È stata una fuga, come dire, pindarica, come dire, volta ad estraniarsi, ad abbandonare quello che poteva essere il suo contesto formale, operativo, di lavoratore, di padre di famiglia, di persona che paga le tasse all'interno del sistema. Invece è una fuga. Parte tutto un po' come ci si accorge che quando il proprio naso non è mai stato come sembrava essere. E quindi poi si possono prendere delle scelte inconsulte, si può mettere tutto in discussione, se ne si può andare abbandonando il proprio posto di lavoro, il proprio posto di cittadino in quello che viene richiamato Stato. E si può discutere, si possono far vacillare le più normali certezze, le quotidiane certezze, le quotidiane consapevolezze ordinarie, e si può rimettere tutto da capo, ex novo, non ci sono preconcetti, non c'è proprio niente, c'è solo il silenzio della creazione. Inizia piano piano, passo per passo, si parte con un pantalone cucato, una tasca squalcita, si parte con un'operazione non riuscita, si parte con la lettura di un libro, la lettura di un libro in una lingua straniera. Si afferrano pochi concetti, per lo più quelli fondamentali. Si pensa che non sia più il tempo per fare quella determinata cosa e quindi si procrastina. Il pensiero a quel punto non può non cadere, non può non cadere agli avi, non può non cadere sugli avi. Non può portare alla mente vecchie immagini, a parer mio quasi allegoriche, quasi seppie, color seppia, diciamo quasi dipinte, quasi obsolete, quasi noiose, quasi scolorite, insomma. Delle immagini apparentemente private, snaturate, spremute dal loro significato originale. Insomma, avete capito di che immagini parlo? Ora, a questo punto, avendo già da poco messo tutto in discussione, essendo sulla via per far ripartire dei punti di vista basilari, quasi assiomatici, mi viene da dire, delle tautologie, come il cavallo bianco di Napoleone, un colore che, come poi, facendo un rimando a Platone, noi siamo riusciti a trovare il cavallo, ma ancora insieme, tutti insieme, non abbiamo trovato la cavallinità. C'è gente che sta studiando da 20 anni per questo. Da 20 anni e non è ancora tuttora giunta a una conclusione. Vorrei fare una petizione a tutti gli ascoltatori. Una petizione per riconoscere la cavallinità dal cavallo. Sono due componenti effettivamente diverse. Ho appurato questo. Non ci resta che indagare. Mettere tutto in discussione. La criniera, lo zoccolo, il colore del palmo, il verso del suo barrito, o forse del nitrito. È tutto incredibilmente in discussione. È un po' come quando vai al maneggio e ti aspetti di cavalcare un cavallo vero. Invece no. È un cavallo finto, è un cavallo di cui noi riconosciamo solo la sua cavallinità e non il suo essere cavallo. Il suo essere cavallo non è mai stato oggetto di indagine, non è veramente un cavallo. È una cosa diversa. È William Defoe che cerca di cavalcare, ma è una cosa diversa. Una canzone sovrapposta su un'altra, sovrapposta su questo soliloquio che si rischia di perdere. Un po' come questa generazione, tutta persa, che è pronta a mettersi in discussione, una generazione scarna, una generazione priva, una generazione in ginocchio, che si mette in ginocchio e si prostra, insomma si prostra di fronte alle cose che non riusciamo a padroneggiare. Si prostra in un senso heideggeriano di fronte all'inautentico, a tutto quello di cui non siamo in grado di renderci padroni. Si parte nella chiacchiera, nel discorso, nella battuta, nell'ilarità, quello che si perde, quello che non ci riesce a toccare, quello che scuma tra le parole altrui. Il residuo fenomenologico di un discorso, di un pensiero, di un qualcosa che non si è concluso. Insomma, è questo quello di cui volevamo discutere questa sera. Cosa rimane? È questo. Magari di fronte a uno specchio, bevendo un Pernod, tagliandosi con questo specchio stesso e preoccupati. E lasciò cadere dal grembo ed era rose. Nostra Signora lasciò cadere le vesti ed erano rose. Ed era rose. Insomma, mandatory for all the scientists and me. You put me after this. Ora erano rose quelle lasciate cadere. Insomma, mi guardo allo specchio e non c'è più nell'attore, nell'attrice, non c'è più niente. Faccio fatica a vedermi allo specchio. Insomma, devo riconoscermi a causa di questo timbro insolito e monotono di voce. Eppure mi stavo guardando. E preso quel timbro che avevo lasciato tre settimane fa. Ero rimasto a quel punto guardandomi e domandandomi. No, ma poi non lo so dire che poi cambiamo di argomento. Insomma, le tendenze moderne sono tra le più disparate. E lasciò cadere le vesti ed era rose. Insomma, rose, bianche, blu, le rose arancioni. Avete mai visto le rose arancioni? Io le ho viste allo specchio, erano effimere, prettamente effimere, annoiate, perdevano i peli continuamente, come se fossero state colte d'autunno. Insomma, mi ci sono punto, anche se non avevo chiesto loro se non di poterne afferrare l'odore, di poterne usufruire di quel barlume che rimanda alla primavera. È una primavera piuttosto inquinata, una primavera oserei dire cittadina, oserei dire sporca, oserei dire smoccata, oserei dire neologismi. Cercherei sempre più parole per descrivere questa primavera, insomma una primavera stolta, effimera, storta, una primavera di poco valore, insomma una di quelle primavere che passano, ti capita di incontrare anche quando non è primavera, anche quando non è ancora stato la tapparella e provi a capire il colore dei glicini, insomma una primavera così. I've got the detonator in my hand, I've got squibs on my body. Questa notte il flash è tutto a posto. Il club si chiama, insomma, a che punto siamo? Siamo al punto di non ritorno, al punto in cui si può solo procedere a ritroso. Insomma, produzioni come dire occasionali, come dire produzioni vacue, produzioni finte. And before I reach whatever I was going to say, Sidney tosses me. I think. Now I ruined a very good movie with a horrible actor's amateur. It's terrible. We actors are so selfish. I'm going to look into rescinding your nomination. But did the success of that film, it was actually, this one I know was a huge hit, critically and financially. And it was beautiful because it was a little small movie. Very Diverso. Ecco, ben diverso e omologato. Qualunque Stato, soprattutto democratico, americano, non tenta il diverso. Non lo procura affatto. Giorni, no. certo di volerlo sovvenzionarlo. Quanto amore, quanto amore, quanta simpatia, quanta gentilezza. Vabbè, allora è ufficialmente conclusa la videochiamata con Chicco Stato. Chicco, è stata una cosa meravigliosa, ci hai illuminato su qualsiasi cosa degna di questo nome. Avrei bisogno di un Gemelli questa sera, possibilmente ascendente Ariete o all'incirca altro segno fuoco, va bene? Se abbiamo qualche Gemelli ascendente fuoco, mi venga la regia numero uno, va bene? Vi ringrazio, questo è proprio un annuncio stasera, va bene? Ma ricordo un bel maiale. Vabbè. Per le di Venezia hanno preso un migliaio che sono aperte, ed è un migliaio in formazione della formazione per la nuova nemico della cultura, della parifore e poi la cultura come non perdere l'arma a parte di un uomo che perdere. E poi soprattutto i viti da casa. Allora, è stata una noce meravigliosa, abbiamo avuto proprio il meglio del meglio, abbiamo avuto anche Carlo Quattrocchi questa sera che è andato di fatto. Allora Carlo, cerca di respirare, va bene, respira, respira, respira. Allora, abbiamo una carrellata di audio su WhatsApp di un certo Gaetano. Forma Gaetano, bello. Che ti devo dire? Che ti devo dire, bello? E Andrea, quella che fai una tutta casca, Andrea, ciao Margherita, contento di vederla, ciao, arrivo, ciao, sì, andò, quanta voglia di sale, sale, moto, con Andrea, prendo il casco, e guarda il buco. Non so più fare, come se non fosse amore, se è vero, sono gli occhi e penso a te. Del 1992, stando alle cronache, lei ha percosso sua moglie Raffaella Baratti, incinta all'ottavo mese. Questo episodio che mi è riuscito non è stato mai smentito. Le cronache che si leggono. Le nostre che sono quelle in che mi va, quel che non è disponibile, lei non ha studiato che basta, ma la stampa non dice niente di fatto, la stampa informa non di fatto, adesso per fatto. Corpi rompete coglioni con l'essere. Allora, abbiamo almeno un Gemelli qua, non dico ascendente fuoco, un Gemelli, un Gemelli, alzate la mano. Allora, bene, bene, bene. Allora, se abbiamo i Gemelli, abbiamo un Gemelli. Allora, abbiamo qualche novità per l'amico Toro, l'amico Toro nato al 7 maggio, va bene? Allora, amico Toro, abbiamo la nostra amica Claudia che ci ha presentato un suo amico. A quanto pare il suo amico di essere stato amico non ne ha per niente, però almeno una qualità ce l'ha. Ci abbiamo il nostro amico Giovanni, cognome Giovanni Bevilacqua, che di cognome fa Bevilacqua ma di professione fa l'astrologo. Caro amico Toro, abbiamo niente dopo di meno che in diretta i consigli astrologici di uno tra i più grandi, tra i più notevoli, tra i più acclamati proprio in assoluto della provincia di Salice Salentina e dintorni, va bene? Salice Salentino e dintorni, va bene? Allora, un minuto e un po' di astrologia. Thought, and I thought, did you anticipate that? No, è lui che deve fondare tante storie. Quel mio questo è and I said, yeah? He said, yeah, you got in bad trouble for that, right? And I said, yeah, well, no, I don't know. Yeah, it's a good movie, though. And he said, yeah, see what happens when you change the story? No, but I didn't think, because it was a devout film, it really explored spirituality. Also, Marty, I don't know what he considers himself, but he deeply is, he's steeped in Catholicism and spirituality. So it was a very sincere, thoughtful film. And I thought, who would have a problem with this in an age of slashing movies? But I think there was a period where the religious right at that moment needed something behind to bring their agenda to the fore. And I think they used it to morph into anti-Semitic things in Hollywood. So it was a political thing. As we know, it's always interesting when somebody gets released. And I feel bad because it hurt them, because it started to, you know, people that want to see it, but it creates a barrier to see them the way you want to see. You have to go through that. Allora, a quanto pare due amici hanno fatto anche l'amore stasera. E questi due amici, uno aveva la giacca nera e l'altro aveva la camicia blu. È stata una notte meravigliosa, abbiamo avuto simpatie, abbiamo avuto amici, abbiamo avuto virtù, abbiamo avuto pure l'astrologia, abbiamo avuto qualsiasi cosa proprio. Proviene che da Lecce ancora non si è fatto vedere nessuno. Siamo qua io e il mio amico Lecce, che proviamo a connetterci insieme a tutti voi. Però nel frattempo un piccolo dono al nostro amico reporter, nato il 7 maggio del 97 alle ore 15 a Milano. Il nostro amico ancora non sa che cosa gli succede, non sa cosa vede il suo futuro, non sa soprattutto chi. E noi che abbiamo qua Giovanni Bevilacqua, che ha fatto un volo, l'Istanello Gallipoli Brindisi, Otranto, Roma, e da Roma tutto un tiro fino qua. Giovanni, caro, bello, che cosa ti sai dire su questo nostro amico? Qualcosa di vero, innanzitutto? Qualcosa di positivo? Very memorable one in Wild at Heart. Huge cameo thing. Cry baby. Ma che bella notizia, bravo. Addirittura. E allora mi sembra un amico sincero. È stata proprio una notte meravigliosa. Abbiamo un amico Abbiamo un amico Becci stasera qua. O perlomeno cancro. Abbiamo un amico cancro qua. Se abbiamo un amico amica cancro, vi prego, venite qua. La la situazione è legata molto all'aspetto economico, all'aspetto di certezza, per cui devono ben tenersi, io consiglio di stare tranquilli perché la situazione si è presa con una certa calma, può riservare per loro grandi cose in futuro, per cui può stare tranquillo, se non per questo aspetto riguardante e le grandi, insomma, così l'aspetto economico, l'aspetto finanziario, poi ci si motivi, insomma, queste cose e il loro interesse, diciamo così, per il comportamento umano e l'azione umana sono le ragioni per cui spesso studiano campi correlati. Now that you're in the forest, come to Sean Yes, she's fantastic. She's great. No, she's great. So we really mixed it up. It feels funny talking to her. They took my job. But it's a good way of ce l'abbiamo un cancro qua, un amico cancro, un'amica cancro, ce l'abbiamo. Mi sarebbe pure piacere avere per lo meno l'occasione, non dico la sincerità, ma per lo meno l'occasione di avere la simpatia, l'affetto, la meravigliosità proprio. Essendo io nato verso giugno, ho sempre rimpianto proprio l'emotività, l'iperemotività del cancro proprio. Mi farebbe proprio piacere, è possibile avere un amico cancro qua stasera? Un'amica pure cancro, non per forza uomo, va bene? In qualsiasi cosa mi va bene stasera, va bene? Va bene, grazie. Amica amica proprio, amica amica. Mother is going to be involved. And you know, it's nice because Sean Baker, the director, the writer of the director, he's a co-writer, he's the director, he's also the editor. So he gets kind of three chances at shaping this thing, you know? So he's very present. Fra pareti lucenti sotto la volta dei piedi, small, fairly small film. He's, you know, fixing your hair and dealing with the, you know, the art direction on that shot. He's everything. So it's makes it very flexible and reactive and thrilling. There's so many specific things I'm dying to ask you about, but I know that people haven't seen the movie, so we'll just have to come back in a couple months. But, I mean, was it a challenging role? You know, I'm not being tricky. Challenging. I feel like that. Challenging roles are the nice thing. Challenging is a good way of challenging. Yes. Yeah, you know what I mean? I don't know what to say. I can think of that. I really enjoyed doing it. With all rules, there's problem solving. Solving. Amici dei. But with this, I've had a lot of arrivava fino alla porta vecchia tornando dall'altro lato per quando separate stavano sempre sulle donne un piccolo cane furbo incominciò a seguirlo, giungeva, lo guardava, spariva mentre Bibi scriveva la porticina per il mondo e sotto mirava morendo morbidamente la porta. Bibi si introdusse presto lasciando il cuore la bestiola si infilava a terra un soffio di soffio raspava io la cantino quella mamma mia vorrei sapere perché me l'ha proibita ella non c'è io l'amo cantar la frase che m'ha fatto palpitare. Basta pensarmi, pensare e chiamare. No,

visto anche un po' di Falcone, ho visto che siamo andati a fare l'esperienza a Falcone, c'è stato molto bello che è una canzone che ha fatto la ragazza, quindi è una cosa che mi sta facendo, che mi piace. Ma già la luce insieme al cemento, sta a cadere. No, no, soltanto una pezza, una pietra. Autopato, pensi che a San Fì si è flippato. Un giorno dato, per questa chance che mi ha dato. Non la butto via, ma anche se mi scambiato. Giane della strada, punto e bravo, soldato. Se pensi che a San Fì si è flippato. Hai toppato, se pensi che sta si sia flippato. Giorno dato, per questa chance che mi ha dato. Non la butto via, ma ne sei finisco affiato. Giane della strada, foto bravo, soldato. Per questa chance che mi ha dato. Non la butto via, ma ne sei finisco affiato. Giane della strada, foto bravo, soldato. La butto via, ma ne sei finisco affiato. Giane della strada, foto bravo, soldato. La butto via, ma ne sei finisco affiato. Giane della strada, foto bravo, soldato. Delle note così opportune che è in grado di percepire solamente colui che le produce, delle note lontane, delle note lontane, delle note tristi, abbastanza tristi. Avrei voluto accompagnarvi con un suono di pianoforte, con un suono, potrei dire, melanconico, struggente, nostalgico, uno suono nostalgico, perché è la nostalgia la dimensione più comune, se ci pensate, di questa specie, anche oserei dire comune, una specie che si identifica nella nostalgia, nel ricordo, nel pensiero, nel non detto, nel non fatto, nel non aver potuto fare. Un'emozione che ci accompagna da lontano 1947, quando non c'era niente di pattuito, quando sembrava ancora tutto in divenire, quando nessuna maestra di scuola avrebbe usato il termine quando gli alieni voleranno, perché i bambini non ci avrebbero creduto. Una generazione cresciuta priva di stimoli computerizzati, di stimoli digitali, di stimoli inautentici, di stimoli farlocchi, utilizzando un termine tuttora in voga, degli stimoli abilitatori di aree del cervello che ancora non pensavamo avessero quell'influenza, quella capacità, quella disopportunità per parlare d'altro, quella mancata tendenza ad interessarci a un qualcosa di più ampio, a un qualcosa di sconosciuto fino a poche decadi or sono, quando ancora non c'erano i video, la tecnologia era storia, doveva ancora essere formata. Allora esistevano i musici, esistevano personalità capaci di intrattenere con degli strumenti, con delle canzoni che più delle volte erano riti formulari con cui venivano iniziate canzoni da cantare a una folta platea di cittadini, quando ancora si viveva nelle piazze, nelle strade, nelle vie, non versi in appartamenti condominiali di grandi ed effimere città. No, prima delle città invisibili, prima delle città ideali. Una mentalità diversa prima del riscaldamento globale, prima di problematiche innovative, prima di un diverso tipo di immaginario. Era ancora prima, quando Allah non aveva ancora nessun padrone. Vorrei introdurre un'amica che ha fatto un lungo viaggio per essere qua con noi, addirittura dal sud dell'Italia. Abbiamo un'amica Cancro, finalmente è arrivata qua. La nostra amica Cancro si definisce essere una persona sensibile, una persona emotiva, altamente lunatica. Insomma, questa sera è qua con la luna nuova. Siamo appena entrati nel segno della Vergine. Siamo in aprile. Che grande novità, grande vitalità, grande amicizia. E la nostra amica Cancro ci vorrebbe dire una cosa che ha scritto sulle note dell'iPhone. Un pochino di attenzione, grazie. Hai fatto tutto. È tutto vero. Sarà vero anche. Sarà vero anche. In un bicchiere personalizzato, in un bicchiere giusto per qualsiasi occasione, per nessuno, un bicchiere da consumare negli aperitivi o nelle feste con gli sconosciuti, oppure in una stagione calda, invernale, a ridosso del Natale, nello scrivere dei desideri assolutamente inespressi, nel brindare ben fatto, nel brindare amareggiato, tutti quelli sconosciuti. قال إنني لا أرقى قالوا نحن أعلم بمن فيها فلنجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا Yeah. abbiamo per caso terminato le cosiddette cose da dire, insomma, le cosiddette ordinarietà. Lei come le definisce, le cosiddette frasi fatte, utilizzando i phrasal verbs, utilizzando una nomenclatura. Io mi dimentico comune, sempre di dire i ringraziamenti finali, proprio, mi dimentico sempre. Insomma, noi ricerchiamo quella nazional popolarità per poi poterne rifugire, per poterne, poterne perdere la gran parte degli aspetti. Parliamo di tutto, anche da buongiorno, di proprio l'amicizia, la gloria amicale, va bene? Assolutamente inopportuni. Anche sorpresi. Non devo, lei mi ricorda. Non sono costretto. L'importante è spaziale, è poter esprimere una pluralità di unicità, altrettanto comuni, ma non meno importanti. E abbiamo avuto proprio la compagnia della Nero. Come lo definire? E se Michael avesse ragione. E se la vita fosse dimentica di essere figlia dell'amore, e se la vita non fosse altro che un'illusione. Aggiungo per pochissimi solitari pescatori di pescare. E se la vita non fosse altro che un'illusione, questa notte eccomi qua davanti a voi, finanche davanti a voi. Sono di certo qui a denunciare, perché insomma, da rifrangersi nella luce la possibilità di specchiarsi, di vedere solo un'immagine, insomma, fugace, vuota, uno stadio dello specchio impreparato, una cosa di poco conto, una cosa di poco valore. Ebbene, finanche conclusione, vorrei fare un applauso a chi c'è, ma soprattutto, ma pure a chi non c'è. Un copione annoiante, un copione. Se buonasera e se buonanotte, se gli amici della notte anche stasera siamo qua, non siamo qua per noi, non siamo qua per voi, non siamo qua per tutti. Lei quel cappello, signore, vorrebbe continuare. E stanotte eccomi qua a dire grazie agli amici, agli astanti, ai presenti, agli assenti, e soprattutto eccolo qua. Pensavo che avere opinioni sulle cose fosse una cosa da una denuncia contro ignoti. Caro Giacomo, o meglio caro Giorgio, non ha sospetto. Nessun sospetto, ma ripeto. Caro Filippo, è stata una cosa proprio insegui. Caro Giorgio, come stai innanzitutto? Usa la divisa sicuramente. Bene Giorgio, ma senti una cosa, una curiosità. Ma alla fine al portello è arrivato il tifo, sì o no? Non può certo fermarci. Ma avete risolto sì o no? Prova a sfidarci, marce, mandate sopra il micro, come sulle strade, cazzo sbirro. vibro così mi sento grido. Mentre tu grido, mentre ti sfido, faccio pensinami alla che così ti maledico. Ma io già respiro, ma e te brutto ti arrivo. Capaccio faglia della canna, si vedi fierno. Prego, prego, prego, prego, prego. Non te ne ritegno, non te ne ritegno. Caro Giorgio, è l'ora, è arrivata sì o no? Cari tutti, ascoltate il vostro cuore. Lo sbirro, lo sbirro, lo sbirro. Dov'è il vostro animo? Dov'è l'anima vostra? Ascoltate l'animo vostro. Il vostro animo, lo specchio. Che bello, lo prima, amore. Due cose, che bello. Specchio, ripeto, il vostro animo. Quanto è bello, lo prima, amore. Due cose, che bello. Hello. change the world from over to the when everyone was shed always together. What's the matter? Can't you see? How are you going to say? And let the world walk in the water. Well, he was never just the one I could see. What's the matter? What's the matter? ولهن جوار المنشآت في البحر Siamo tutti burro sciolto e racconti sulla NASA, forse è troppo per te, è esagerata la tua voglia di esprimermi questa serata. Ho spento le cappe, ho spento il microfono, ho aperto la finestra, sono uscito di io li ho surgelati perché con i surgelati faccio i gelati. Non aver paura, entra pure dentro di noi, fatti sentire, di la tua, dai, regalaci la vibrazione che ci manca, dai, regalaci la vittoria, non fare il cane carrozza, dai che sei un gattino impaurito. Dai che lo so che stai da lontano con quel piccolo sguardo fornito, nero e poi colorato, nero e poi colorato, mi mixano la voce ma non fosse un cono gelato, manco fosse un cono gelato. È da 4 anni che mi sono mischiato con i colori, già quello che mi faceva prima, ma sono quegli professori, quelli che mi hanno I'm not afraid.

Amore, mamma mia, ma che posto mi ha portato? No, una volta ogni tanto ce lo possiamo concedere. Certamente. Mica possiamo andare sempre alla trattoriaccia da Giannotti a calcolare sotto casa. Se una volta, mo andiamo a... Thank you. Voglio parlare al tuo cuore, voglio vivere per te di sole d'azzurro. Tigniri essa stanna com, nekti fuoti mi diwan. Detta sini ti ne da shakwa, na yanu warani singei tisana taba. Suppose taran dakhshina wan dinere sastana pa dikti futmi diwan leta sinidi leda shakwa inayan warani singei tisana taba suppose taran dakhshina wan se ne è caduto palazzo, niente di più. Hai avuto paura? Eh sì, un poco. Cosa sa di questo palazzo? Faccio lo che è flaccido. Aveva già dato segni di cedimento, che stava per cadere? No, no, soltanto una pietra è subito caduto un palazzo. Perché qua siamo rovinati. Tu sei un altro va a fare la dialisi, un altro c'è il peso pesante, un è malato di cuore e non può fare le scale. E le scende si sono fatte della scisione. Guarda qua, si stanno lamentando. Adesso fermiamo i giorni. La mattina la svaganza. La mattina la svaganza. L'acqua del diavolo è un po' nera, sta la bandiera nera. Questi idee perché i bambini non vanno stare a mare. Sta uno là e uno qua a morta. Piazzate che si comunicano. Io, Berlusconi. Mica c'è un po' di birra. Come sta? Gioca bene, perché? Un voto da una signor Berlusconi, dopo domani è il primo maggio. Me la può lasciare una bottiglia di birra? Sì o no? Un voto all'iniziativa. Signor Berlusconi, ora che è più libero. Allora me la voy a dar una botella de birra. Grazie. E venne qua. E abbi del quanto. Signor Berlusconi. Buona estate. Siccome mi aveva promesso di portarmi una bottiglia di birra, quando me la porta? Così grande. Lo scusi, ho Berlusconi, perché è un pochettino brillo. Dato che siamo in argomento, gentilmente potrebbe fare un piccolo prestito che noi ancora non abbiamo mangiato, grazie. Una vasca senza. Quante persone vivono nella vostra casa? Quante persone vivono? Tutti i bambini, signor Berlusconi, non è che per caso si ha bevuto la mia birra e a me mi ha lasciato all'asciutto. Signor Berlusconi, lo scuso perché è un pochettino brillo. Comunque, dato che siamo in argomento, gentilmente potrebbe fare un piccolo prestito che ancora non abbiamo mangiato. Grazie. Signor Berlusconi, vuole sapere la verità? Lei mi sta rompendo. Lo scusi, signor Berlusconi, perché è un pochettino brillo. Dato che siamo all'argomento, gentilmente potrebbe fare un piccolo prestito che ancora noi non abbiamo mangiato? Grazie. Vasca Sacciani, giaburato. Signor Berlusconi, dov'è la birra? non farlo mai più. I baci tranquillizzanti mi buttano giù. Tu vuoi mostrare a non farlo mai più l'amore che c'è fra noi. Una medaglia al valore che da sola ti dai. Adesso che hai una casa, un uomo e una reputazione, padrona, padrona, anche dal tuo padrone. Vorresti che ti seguissi nel goder con distinzione di tutti i frutti della vita, quasi quasi compresi quelli colti da altre dita. Prova. E la memoria impertinente mi riporta là, a una ragazza fra... Saluto gli amici di Melandugno. Allora, sono contento per questa bella serata che abbiamo passato assieme. C'è stata Ludovica e da Salice Salentino che ha scritto una delle cose più belle della serata. Lei non era qua stasera, ahimè, però è stata comunque con noi. In chiusura di questa meravigliosa serata vorrei leggere queste breve righe che ha scritto la nostra amica Ludovica da Salice Salentino. Ludovica si chiama, o meglio, si fa chiamare così, Ludovica con la O, non con la U, perché mi piace così. Allora leggiamo in amicizia questo bel messaggio da Ludovica, la nostra amica da Salice Salentino. Ludovica con la O. Cara Ludovica, bentornata. Tu sei Ludovica? Adesso tu hai Capricorno. Ah, come radici. Lei è Capricorno, è Capricorno, caro Filippo. Ascendente d'oro, pericoloso. Perché? Chiedi a Filippo che segno è. Qual è la difficoltà? Filippo, che segno sei? Leone. Di rompente di...